Bravissimo. Ragazzi, sono veramente emozionata questa sera di essere qua in mezzo a voi, in mezzo a gente veramente giunta da ogni dove e ne sta arrivando veramente tantissima. Io mi sento di dire che avvenimenti come questi ne succedono di rado. Vedere tanta bella gente, semplice, naturale, cordiale, amici come voi che hanno voglia di cantare, di divertirsi, di ballare, di cantare, di suonare, di ballare un po' di tutto, anche il liscio. Anzi, a questo proposito, volevo fare una proposta al comune di Alba, alle Proloco, alla regione, alla provincia, chi lo sa. La nostra orchestra vorrebbe fare un bel omaggio ai grandi classici del liscio, fare proprio un bel concerto per un grandissimo omaggio ai grandi classici del liscio. E quando si parla grandi classici del liscio, la parola d'ordine è Casadei. A questo punto un saluto particolare alla mia amica Rita, cantante storica dei Casadei. Allora, Casadei è la mazurka di periferia, la mazurka è la mazurka di periferia, scaccia pensieri, tanta allegria, ci basta un grillo per farti sognare, metti la quarta e balla con me.